Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. 25 aprile e 1 maggio, negozi aperti o chiusi? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Puntuali come ogni anno sono arrivate le polemiche sulle aperture straordinarie dei negozi nei giorni delle feste laiche comandate. Quest'anno però c'è una grossa novità. Si tratta del decreto sulle liberalizzazioni voluto dal governo Monti, che di fatto ha dato manforte ai sostenitori delle saracinesche alzate. Ne parleremo in questa prima parte di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Dal design alla moda, passando per arte e pubblicità, i colori cercano di farci dimenticare la crisi. Consumi vitaminici è il tema del focus sui trend. Prima però ci sono le notizie e curiosità della settimana. Carrello della spesa sempre più leggero per le famiglie italiane, che fronteggiano la crisi tagliando la spesa alimentare. Meno 4% nel 2011, dice Federalimentare, e il 2012, secondo le stime, dovrebbe portare un'ulteriore flessione. Tra i prodotti maggiormente in calo spiccano zucchero, gelati e pane. E la crisi taglia anche la pappa di Fido. Follia collettiva da shopping, invece, in Serbia. A Inzija, cittadina a nord di Belgrado, è stato inaugurato il primo fashion outlet del paese. Autostrada bloccata per le migliaia di persone pronte ad approfittare del 70% di sconto, applicato anche sui capi di molte griff dell'alta moda italiana. Adiconsum e Netcom, il consorzio del commercio elettronico, hanno siglato un protocollo di collaborazione per gli acquisti online. Monitoraggio del settore, tutela dei consumatori, stesura delle linee guida per le best practice di e-commerce e soluzioni per i disservizi negli acquisti tramite coupon, i principali obiettivi. Puro godimento. Questo il claim dell'edizione 2012 di Taste of Milano. La terza edizione del grande happening gastronomico si terrà dal 17 al 20 maggio all'ippodromo del Galoppo di San Siro, dove verrà allestito un vero e proprio parco giochi del gusto. Tra show cooking, incontri, workshop e attività per i più piccoli, sarà possibile assaggiare, taste per l'appunto, i piatti di molti chef stellati a un prezzo compreso tra i 4 e i 6 euro. Il ticket sanitario si paga alla cassa del supermercato. Il servizio debutta per la prima volta in Italia a Bologna, grazie all'accordo tra ASL, Coop Adriatica e Coop Reno. La borsa della spesa. Come sindaco di Lanschenè voglio darvi il benvenuto nella comunità e anche invitarvi ad onorare con noi la messa della domenica. Lei è molto gentile, ma noi non siamo praticanti. Spero che verrà a trovarci quando avremo aperto, tra una settimana. Sì, aprire una pasticceria durante il sacro digiuno quaresimale non immagino un momento migliore. Oh, ma io non voglio mettere una pasticceria. Allora cosa hai intenzione? È una sorpresa. Chi non avesse visto il film Chocolat, la sorpresa la svegliamo noi. Era una pralineria, vero e proprio attentato alle abitudini domenicali di questo paesino, quasi come rompere il tabù del Natale laico dei lavoratori il 1 maggio. Complice la liberalizzazione del settore, mai come quest'anno i sindacati contestano le aperture, quelle che ci sono già state per il 25 aprile e quelle che ci saranno comunque anche per il prossimo 1 maggio. Il mondo del commercio, grande distribuzione in primis, ha deciso di alzare le saracinesche. I sindacati hanno risposto con scioperi unitari per impedire le aperture. Scioperi proclamati in molte città. Allora, domenica prossima fai orario continuato dalle 9 alle 18. Informiamo la gentile clientela che il nostro punto vendita rimarrà aperto tutti i giorni, comprese domeniche e festivi, con orario continuato. Invertiamo la tendenza, cambiamo la cultura del consumo. La festa non si vende, questo è il claim dello spot su YouTube che sentite in sottofondo. In molte città c'è stata anche un'attività di volantinaggio nelle piazze per invitare i consumatori a non comprare. L'appello ai consumatori ci pare il minimo, ci ha detto Maria Grazia Gabrielli di Filcams CGL. Lanciamo un messaggio sui contenuti e del perché ovviamente riteniamo che in questi giorni bisogna, come dire, provare a pensare ad altro e non al consumo. Con il volantinaggio invitate allo sciopero anche i consumatori, un boicottaggio? Possiamo utilizzare, leggere le parole e dargli un'accezione diversa. Quello che stiamo facendo è una sensibilizzazione. Cerchiamo di dire ai consumatori, ai cittadini, agli altri lavoratori che non operano in questo settore, di tenere conto di qual è il disagio della giornata festiva. La nostra è una richiesta di adesione, di solidarietà da parte dei cittadini e dei consumatori. Ma lo sciopero è stato contestato anche da gruppi di lavoratori. L'importante è il lavoro, si sono fatti sentire i precari veneti. Irremovibile Federdistribuzione, che rappresenta le grandi insegne di supermercati, escluse Conad e Coop. Applichiamo una legge dello Stato, ci dice il presidente Giovanni Cobolli Gigli. Abbiamo apprezzato questa legge, che è legge dello Stato, ci dà libertà di decisione. Le scelte che facciamo sono rivolte al servizio che dobbiamo dare alla clientela. È cambiata la situazione rispetto agli anni precedenti. Non vedo nulla di particolarmente scandaloso nell'apertura dei negozi quando si pensa che sono aperti tutta un'altra serie di servizi ai cittadini, i ristoranti, i musei, gli outlet fuori dalle città sono aperti tutte le festività. Mi sembra che interpretare una legge dello Stato che dà libertà imprenditoriale alle aziende del commercio non sia una provocazione. Per di più, moltissimi dei dipendenti che lavorano sono dei dipendenti che spontaneamente hanno scelto di lavorare, anche perché lavorando nelle festività, nelle domeniche, si hanno dei vantaggi a livello economico, una maggiore retribuzione. Non vergogniamoci a dirlo, c'è bisogno di guadagnare e io credo che questo sia un altro elemento che debba essere tenuto in considerazione. Confcommercio e Confesercenti, critici con la nuova legge che, dicono, ha impedito una gestione coordinata, alla fine hanno deciso di lasciare libertà di scelta ai singoli. Simon Paolo Buongiardino di Confcommercio Milano. Poiché quella norma ha stabilito la totale libertà di scelta, questa oggi va rispettata fin tanto che noi speriamo non intervengano modificazioni, perché è insostenibile il carico di lavoro soprattutto sui piccoli esercizi derivanti da aperture prolungate e continue. Purtroppo massima libertà di scelta. Vorremmo poter programmare le aperture, ma questo oggi ci è impedito. Tra l'altro, in un momento come questo è anche difficile valutare i benefici o gli eccessivi costi per aperture o meno rispetto al periodo e alla propensione all'acquisto dei consumatori, è così? Siamo certamente in emergenza e in emergenza succede un po' di tutto, compreso la ricerca degli incassi cosiddetti marginali, per cui anche da questo punto di vista c'è una spinta a tenere aperti. Questo è figlio più dell'emergenza che non di una volontà. Divise le associazioni dei consumatori, fra le quali spicca la posizione di Altro Consumo, che dice non ha senso pensare di festeggiare imponendo ai negozi di stare chiusi, le città chiuse sono morte. Quello che è certo è che non si tratta di una questione solo commerciale, economica o politica. Il tema riguarda anche aspetti sociali e culturali, come ci spiega la sociologa Chiara Saraceno. Sono poche le festività laiche e di grandissimo significato. Segnarle in un modo simbolicamente importante mi sembra che valga la pena, soprattutto non vorrei che la festività significhi solo che è la possibilità di mantenere aperto il più possibile il consumo. Ritengo che tutto sommato si può anche non dover comprare a oltranza. Per molto tempo il tempo libero è stato visto come il tempo del consumo, però in questi mesi di crisi diventa molto più palese questa contraddizione. Sì, e anche in fondo questa forma di ossessione, no? Per cui bisogna poter comprare sempre e comunque, come se l'unica attività che non si può organizzare fosse quella del consumo. Capisco che i commercianti pensino nella crisi attuale che bisogna inseguire il consumatore in ogni minuto della sua disponibilità, però dato che appunto le risorse poi sono quelle che sono, se uno compra il 25 aprile poi forse non compra il 26. Essere e avere. Dove sono i colori? Le parole che respiri dentro le canzoni, dove sono i segreti? Di nuovo in studio con Essere, Avere, Consumi Vitaminici, il tema del focus sui trend di questa settimana, tutto dedicato ai colori. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello, docente di Sociologia dei Consumi e Analisi delle Tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Moda, design, arte, pubblicità, marketing. Dopo anni di minimalismo cromatico, i colori sono diventati di nuovo protagonisti. Moto di reazione al pessimismo e alla crisi da una parte, escamotage creativo per sopperire ad altre mancanze dall'altra, i consumi vitaminici fanno tendenza, soprattutto, come è ovvio, in questo periodo dell'anno. Patrizia. Sì, siamo in una stagione di colori, anche se sappiamo che i colori non durano, niente più effimero del colore, soprattutto nella moda. E infatti niente tinte forti per l'autunno e inverno, ma parliamo del 2013-2014, e lo dice Liedelkort, guru trendsetter olandese, una delle 25 persone al mondo più influenti nella moda secondo Time Magazine. E quindi siamo certi che i colori accesi, che adesso hanno questo protagonismo, saranno banditi perlomeno nella moda, che andrà in quella direzione. Ma intanto si colora energicamente la casa, che diventa uno spazio da arredare ma anche da vestire e rivestire, con ricambio frequente di dettagli, accessori, anche e soprattutto a basso costo. Ed ecco il fenomeno degli sticker wallpaper, le decorazioni adesive, quelle con effetto tappezzeria o le forme singole, le silhouette non solo per pareti, che così colorate innestano nello spazio abitativo una dimensione ludica e fantastica, ma anche per gli oggetti, dal frigorifero agli specchi alle porte eccetera, ed è un modo per rivisitarli colorandone anche temporaneamente la pelle, quindi trasformando la casa in una scenografia sensoriale. Design e moda che hanno nel DNA in comune contaminazione e sperimentazione, e sono sempre più ibridati, non solo perché stilisti disegnano vesti per l'oggetto d'arredo e designer progettano linee destinate alla casa per i grandi marchi di moda, ma anche proprio per l'uso del colore e il recupero dagli archivi del passato. E nel design l'uso dei colori in questo momento viene usato proprio per proporre riedizioni dei classici con colori nuovi e spesso inusuali. È un espediente creativo che da un lato incontra un desiderio di varietà da parte dei consumatori e che dall'altro fa i conti anche con spazi di manovra sul fronte dell'innovazione e dell'investimento delle aziende produttrici, forse un po' limitato al solo protagonismo del colore. Colore che reinterpreta e ricarica in chiave emozionale appunto oggetti classici. Due esempi di redesign colorato di pezzi storici ripescati dal grande design. Il primo è il tavolo reale di Carlo Mollino del 46, prodotto da Zanotta, trasformato nel tavolo irreale da Alessandro Guerriero, quindi un pezzo storico riprodotto identico nella forma, quindi stesso cristallo, ma al posto del legno di quercia della struttura un materiale diverso, cioè un plexifluo. La tiratura è limitata, sono 9 pezzi e ovviamente tutti di colore diverso. Un altro esempio è lo sgabello 60 di Alvar Aalto per Artec, uno dei classici rimasto sempre in produzione in legno chiaro, che quest'anno viene rieditato appunto in diversi colori. Anche la fascinazione per il vintage, che continuamente si rinnova con il riuso continuo degli stili, dei temi formali, delle icone e appunto dei colori dei decenni passati, a cui moda, pubblicità, comunicazione grafica e design continuano ad attingere, ha contribuito a questi ciclici ritorni dei colori. E al di là delle fluttuazioni dei colori della moda, ci sono però brand che nell'immaginario sono saldamente ancorati ai colori proprio come tratto distintivo. Pensiamo a Cartel, Lush, le righe colorate di Paul Smith, ma anche la Duree, la pasticceria che ha rilanciato i macaroni, i famosi dolci di Maria Antonietta, appunto coloratissimi. Colori caramella per le nail art pen di Deborah, le penne smalto coloratissime per manicure fluorescenti, che sono uno dei tanti richiami evidenti al fenomeno delle K-pop. Le band di adolescenti coreane sono state definite anti-lolite, sono truccatissime, coloratissime, l'estetica di ispirazione è quella manga. In rete si trova un tripudio di tutorial per imitarne il look e nei negozi c'è un tripudio di make-up coloratissimo. Cosa succederebbe se qualcuno rubasse i colori al mondo? La risposta è in un film che una recensione che ho trovato in rete definisce visivamente ambizioso, Rainbow, il mondo segreto dei colori, un film per ragazzi, una favola del 1996, regista e interprete Bob Hoskins. Uno solo ci vide giusto, Isaac Newton. Fu lui il primo a capire che non era il prisma a creare i colori. Era la luce. E capì che alle piante per crescere servivano tutti i colori, tutta l'energia dello spettro. Perché se non ci fosse tutta quell'energia, la vita sul pianeta cesserebbe di esistere. Ho visto un arcobaleno. Non un arcobaleno qualunque. L'ho visto atterrare come davanti a me. Ci pervengono continui rapporti della polizia. Improvvise esplosioni di aggressioni e di rapine nelle zone centrali della città. La situazione peggiora di ora in ora. Credevo che con l'oro si potesse comprare tutto. Ne avevo presi solo pochi pezzi. Ce n'era tanto sull'arcobaleno, era dappertutto. Ora guarda, sembra la fine del mondo. Quando Steve gli ha tolto quei pezzi d'oro, lo ha danneggiato. Per quello i colori se ne vanno dal mondo. Patrizia, non solo nei prodotti, anche nel retail, negozi, ma anche ristoranti, alberghi, il marketing dei colori è molto utilizzato. Sì, interessante il fenomeno per esempio dei colori Pantone. Pantone è il marchio ufficiale che produce colori. Negli ultimi anni ha brandizzato una serie di prodotti e oggetti di design, tra cui Pantone Hotel di Bruxelles. È un albergo di 7 piani, ciascuno di questi piani, così come le 59 stanze, sono contraddistinti dalle diverse palette di colori che completano, diciamo, sensorialmente l'esperienza degli ospiti. L'hotel offre anche la più ampia selezione di prodotti Pantone Universe in tutto il mondo, tutti disponibili per l'acquisto direttamente in hotel, e c'è davvero quasi tutto pantonato. E dicevamo retail, sì, sono molti gli esempi di punti di vendita che fanno dei colori elementi costitutivi al pari dell'arredo e dei prodotti esposti. C'è un bar ristorante a Parigi, si chiama Germain, che ha questo effetto straniante e surreale proprio grazie all'uso sapiente dei colori, e pare quasi di entrare in una pagina di Alice nel Paese delle Meraviglie. Abbiamo le sculture giallo limone, le pareti azzurre, le poltrone rosse e verdi, librerie laccatissime, un biliardo viola. Oppure Cape Town, il negozio Unknown Union, che fa un uso per così dire anomalo del colore per un negozio di moda maschile, cambiandone radicalmente i codici espressivi che diventano luminosissimi e fluo. E ancora Sydney Streetology, un negozio fashion tutto organizzato con vending machine, cioè dispenser di t-shirt coloratissimi, quindi si associa il tema estetico del colore all'esperienza ludica. Infatti nel negozio ci sono questi dispenser sospesi da cui pescare direttamente le t-shirt. Sono in confezioni cilindriche organizzate per colore. In totale nel negozio ci sono 2550 magliette disponibili, ed è molto piacevole l'effetto ottico dato dai diversi schemi colorati che si creano man mano che queste magliette vengono vendute. Dunque i dispenser si svuotano creando dei giochi di colore. E ancora Grape District di Amsterdam, un'enoteca che seleziona i prodotti e li presenta secondo le diverse categorie associandole a diversi colori. Quindi abbiamo per esempio Easy, sono i bianchi leggeri, Mellow, i bianchi di media gradazione, Rich, i bianchi corposi, Rosy, Rosé, eccetera. Ogni categoria associata a un colore ha una relativa etichetta, e tutto questo viene riportato nelle scaffalature e nelle grafiche illustrative dei prodotti. Dunque si entra, si vuole acquistare un vino per esempio rosso corposo, si cerca solo in deep seguendo questa mappa colorata che ci aiuta a navigare nel negozio con un notevole risparmio di tempo. Cosa c'è di nuovo a